Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Parleremo di fotovoltaico stasera e domani sera, dopo qualche tempo che non lo facciamo. Fotovoltaico che, insomma, in quanto filiera industriale è stato messo in ginocchio in Italia, dove si è passati da un sistema di incentivazione troppo generoso al nulla assoluto, col risultato di uccidere, oltre a molte aziende, diciamo, non proprio efficientissime, pure quelle sane. Anche nel resto del mondo il momento non è dei migliori. In Germania chiudono uno dopo l'altro le fabbriche di celle fotovoltaiche e persino la Cina ha seri problemi di sovrapproduzione. Allora cosa vuol dire? Che stiamo assistendo alla fine del fotovoltaico? Ma manco per niente, anzi il fotovoltaico è ormai giunto al punto di svolta, la cosiddetta grid parity, che è a portata di mano e in alcune situazioni è già una realtà di fatto. Ma è soprattutto il gran numero di ricerche scientifiche che hanno per oggetto il fotovoltaico a testimoniare la vitalità di un settore che, nonostante il momento difficile, è tutt'altro che sulla via del tramonto. E anche in Italia la ricerca sul fotovoltaico non manca. Di recente due notizie che arrivano dal Center for Nanoscience and Technology di Milano, che fa parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia, mi sono sembrate particolarmente interessanti. Cominciamo dalla prima, di cui parliamo questa sera, che ha per protagonista Marco Carvelli, ricercatore appunto dell'IIT. Buonasera Carvelli. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti che lì ci siamo da casa. Allora Marco, voi stampate celle fotovoltaiche con una specie di stampante a inchiostro, ci spieghi? Sì Maurizio, dunque quello che facciamo è cercare di adattare tecniche di stampa che sono attualmente utilizzate in ambito industriale per stampare giornali piuttosto che riviste, piuttosto che etichette, adattare questo tipo di tecnologie che vengono chiamate roll to roll perché si fanno in continua su dei rulli a un nuovo tipo di approccio al fotovoltaico. Un po' tipo il rotocalco, so capito. Un po' tipo il esatto, un po' tipo il rotocalco in cui si va a stampare con degli inchiostri speciali, quindi alcuni inchiostri saranno composti ad esempio da nanoparticelle di argento e verranno utilizzati per fare gli elettrodi, altri inchiostri invece saranno composti di polimeri. Questi polimeri non sono altro che materiali plastici, quindi... È sì. Però di un tipo speciale, no? Che appunto sì. Presenta diciamo, le caratteristiche necessarie per generare l'effetto fotoelettrico, fotovoltaico, diciamo. Esattamente, quindi diciamo sono tanti strati uno sopra l'altro, depositati uno in seguito all'altro, a formare un sandwich che sarà il nostro dispositivo finale in grado di convertire l'energia solare in elettricità. Elettrica. Diciamo che quando si stampa con questi sistemi di cui stai parlando, per esempio si usano quattro colori, in realtà voi fate un sandwich di tanti materiali sovrapposti. Quanti sono? Sono tipicamente 5-6 strati, ma possono anche essere di più a seconda di gradi diversi di ingegnerizzazione, diciamo, di ottimizzazione del dispositivo stesso. Ecco, su che materiali potete stampare utilizzando questa tecnica? Ma quello che facciamo ora è cercare di semplificare il più possibile il processo, quindi stampiamo su materiali che costino poco e permettano di avere caratteristiche di flessibilità e leggerezza. Quindi quello che andiamo a fare ora è stampare su PET, che sì. Non è nient'altro che la plastica della quale bottiglie. Bravissimo. Quella delle bottiglie, polietilente reftalato. Bravissimo. Però potreste stampare anche su altri materiali, no? Sì, potenzialmente su le stoffa. Tecniche si possono adattare per stampare su altri supporti, tra cui anche la carta, bobine di alluminio, ad esempio. Ah, ok. Ecco, però fammi capire, voi pensate che questo approccio possa sostituire quello tradizionale? Questa è la direzione nella quale state lavorando o cosa? No Maurizio, allora fondamentalmente uno può pensare di approcciare la tecnologia per il momento non andando in competizione con il fotovoltaico che è attualmente in uso, anche perché non avrebbe senso viste diciamo le performance che attualmente sono inferiori, questo va detto, rispetto al fotovoltaico sì. Di tipo tradizionale, ma si può andare a giocare su alcune opportunità. Cioè laddove il fotovoltaico tradizionale non può essere utilizzato. Mi fai un esempio di un'applicazione furba che si potrebbe fare. Dunque, ad esempio la tenda da campeggio può essere un'applicazione. Se, certo. Se si va in campeggio e si vuole ricaricare il proprio iPad o iPhone su uno zainetto che vogliamo usare per andare in montagna a camminare, portarsi dietro un chilo, due chili o 10 chili certo. Di pannellino è un po' improbabile. Grazie Marco Carvelli. Grazie a te Maurizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.